America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, continuo ad augurarvi il buon anno. Questa è la prima settimana del 2017 e dunque, cerchiamo di essere ottimisti. Auguriamoci un buon anno ogni giorno per tutta questa settimana. Un anno che, come andrà a finire questo 2017? Ecco, come sapete, questa settimana sto cercando di dedicare le puntate appunto alla creazione un po' di scenari che riguardano il futuro, che ci aspetta soprattutto con la nuova amministrazione Trump. The president-elect turning decades of protocol upside down with his 10-minute phone call with Taiwan. The reaction pouring in, including from China. E dunque parliamo di Cina. Avete sentito, il newscaster dava la notizia del 2 dicembre quando Donald Trump riceveva e accettava la telefonata di Tsai Ing-wen, la presidente di Taiwan. Ricorderete lo scandalo perché nessun presidente americano aveva mai, avuto un dialogo diretto con i presidenti di Taiwan, perché Taiwan è considerato una provincia separata dalla Cina. C'è nel rapporto fra Cina e Stati Uniti, a partire dal 1979 quando fu formalizzato, ma già prima all'inizio degli anni 70, dal celebre storico viaggio di Nixon in Cina nel 1972, c'è un accordo formale della One China Policy, cioè gli Stati Uniti riconoscono che Taiwan forse può far parte della Cina, però Taiwan resta indipendente, la Cina chiude un occhio e si è andati avanti così per 40 anni. Ecco, ricorderete che molti reagirono dicendo: ma questo Trump, ma guarda che cretino, non sa nulla, ha preso questa telefonata senza sapere che avrebbe fatto una gaffe orrenda. In realtà, altro che gaffe, Trump sapeva benissimo quello che stava facendo. Si era incontrato un paio di giorni prima con John Bolton, che aveva considerato come segretario di Stato, il quale aveva scritto un articolo dicendo: provochiamo la Cina aprendo su Taiwan. E quindi ci aspettavamo una risposta. La risposta c'è stata, è venuta il 15 dicembre. Non posso credere che le due cose siano separate. Il 15 dicembre che succede? Che la Cina sequestra un drone sottomarino americano nelle acque dei mari cinesi del sud. In realtà erano molto vicini alla Filippina, erano 50 miglia dalle Filippine. Però la Cina dice che insomma in fondo lei sta reclamando certe sovranità territoriali in quella zona. Ma è buffo anche come l'hanno preso questo drone, perché c'era una nave da guerra americana che li stava recuperando. I droni in realtà erano due droni sottomarini, e a un certo punto i cinesi, mentre gli americani hanno in corso questa operazione, si avvicinano con un loro vascello che appartiene a una nave da guerra che seguiva queste operazioni americane e si rubano il drone e se lo riportano a casa. Ecco, poi la cosa si è ricomposta, ma è un avvertimento chiaro. Insomma, il rapporto Cina-Stati Uniti è un rapporto chiave guardando al futuro, non soltanto dal punto di vista geopolitico, non soltanto da quello militare, ma anche da quello economico. E sappiamo che Trump minaccia tariffe contro la Cina. Insomma, è una situazione difficile, una situazione che, mette in evidenza anche un aspetto rilevante della potenziale crisi della globalizzazione. Dunque, con me ai microfoni di America 24, ho fatto una chiacchierata con lui un paio di settimane fa, Federico Rampini. Perché? Perché Federico ha scritto un libro che parla proprio di globalizzazione, di come le elite in qualche modo hanno cercato di vendere un sogno di benessere che in realtà poi non si è materializzato. Al centro di questa crisi della globalizzazione c'è il rapporto Cina-Stati Uniti. Federico, buongiorno. Buongiorno. Ecco, allora Federico, guardiamo in avanti. Insomma, io ho fatto una piccola carrellata per creare un po' il presupposto, ma qui Trump sembra che stia partendo piuttosto bellicoso. Sì, ha scelto di portare la provocazione su uno dei terreni più cruciali, delicati per i cinesi. La questione di Taiwan è altamente simbolica. Insomma, su quello si giocò il patto tra Nixon e Mao all'epoca del grande disgelo. Però, come tu hai ricordato nella tua introduzione, c'è sempre stata in un pezzo della destra americana neoconservatoria, la Bolton e altri, l'idea che a un certo punto bisognasse far vedere ai cinesi che l'America poteva anche farle pagare dei prezzi molto molto pesanti. Prezzi per che cosa? Fondamentalmente Trump vuole delle contropartite sul terreno economico, ha promesso ai suoi elettori una politica protezionista, quantomeno ha promesso di difendere meglio gli interessi della classe operaia americana, di tutti quelli che hanno perso posti di lavoro, fabbriche, deve ottenere qualcosa dalla Cina. Quindi è partito puntando molto in alto, con una minaccia di destabilizzare relazioni che almeno su quel fronte diplomatico e degli assetti Cina-Taiwan erano abbastanza tranquille da molti anni. C'è anche un contesto geopolitico, cioè la Cina si sta allargando molto nel bacino soprattutto navale del Pacifico che le riguarda, dei mari cinesi del sud, e quindi sappiamo di progetti per costruire nuove portaerei, le isole artificiali che sono state costruite per creare delle piattaforme militari artificiali, la polemica col Giappone per il controllo di un piccolo arcipelago. Secondo te la Cina in questo momento, dal punto di vista politico-militare, sta cercando davvero una forte espansione e vuole espellere l'intrusione degli Stati Uniti in questa regione? Stati Uniti che hanno basi militari, portaerei, Taiwan. Anche se io ho fatto per 5 anni il corrispondente in Cina, sono stato a Pechino dal 2004 al 2009, è sempre molto pericoloso l'esercizio che consiste nel cercare di interpretare cosa veramente vogliono i leader cinesi, perché quando si ha a che fare con un regime autoritario, autocratico e del tutto privo di qualunque trasparenza, siamo sempre costretti a fare delle ipotesi, delle illazioni. C'è una contraddizione nella politica cinese: mentre verso altre parti del mondo, con dei progetti come quello che Xi Jinping chiama One Belt, One Road, una cintura, una strada, vastissimo progetto di investimenti infrastrutturali che partono dall'Asia centrale e arrivano fino al Mediterraneo, con quel progetto la Cina si presenta come portatrice di un soft power, cioè vuole effettivamente espandere la propria influenza, ma in un gioco a somma positiva, in cui propone benefici anche per gli altri. Invece nelle sue immediate vicinanze ha una politica più muscolosa, più militarista, che spaventa i vicini. Ora, per rispondere proprio alla tua domanda, espellere gli Stati Uniti dal Pacifico in realtà non è nemmeno interesse della Cina, perché significherebbe automaticamente, ti dico la prima delle conseguenze, la più grave di tutte, il riarmo nucleare del Giappone, che non a caso lo stesso Trump ha evocato. È chiaro che se dovesse venire meno la funzione di garante degli Stati Uniti, il Giappone si fa l'atomica. E questo non è nell'interesse della Cina. Comincia un'altra storia di corsa agli armamenti, molto molto pericolosa, e gli stessi cinesi non sono sicuri che alla fine ne avrebbero un vantaggio. E secondo te dunque Trump poi come si muoverà? Perché c'è anche la partita Corea del Nord, tra l'altro pochi giorni prima di questa chiamata finalmente la Cina aveva aderito a certe sanzioni contro la Corea del Nord per i suoi progetti nucleari. Ecco, anche quello è un capitolo non secondario oltre a quello economico e geopolitico. Dunque Trump cosa farà? Secondo te è rimasto sorpreso da questo sequestro del drone? Possibile che la Cina, come dire, se Trump va avanti su questa strada, invada Taiwan e così chiude la partita? Cioè, benissimo, e allora adesso che fai? Dunque, qui mi stai chiedendo un altro esercizio difficile, perché prevedere quello che farà Trump è quasi come prevedere quello che faranno i cinesi, per motivi completamente diversi, ma perché Trump è un personaggio, abbiamo visto, molto impulsivo. Io ho l'impressione, giudicando da come si è comportato finora, Trump si può accontentare anche di vittorie di bandiera, cioè sul piano commerciale, se riesce a portare a casa qualcosa, possa dire di aver salvato 2 fabbriche americane, magari anche solo 2000 posti di lavoro, poi lui se la vende per settimane su Twitter, ne fa una cosa magnifica. Non lo vedo capace di elaborare un piano molto complesso di avanzate strategiche, di contropartite da chiedere ai cinesi. E questo forse i cinesi, che poi sappiamo che vivono di millenni di saggezza, lo hanno capito, dunque essendo saggi non avranno anche loro la reazione invece impulsiva alla provocazione di Trump. No, sono d'accordo con te, in questo senso escluderei anche l'invasione militare di Taiwan, che oltretutto è un'isola piccola ma armata fino ai denti, non si sa neanche come finirebbe, quindi non farei previsioni catastrofiche, salvo una conclusione possibilmente molto molto negativa. Non dimentichiamoci tutti i problemi interni all'economia cinese. In questo momento la Cina soffre di fughe di capitali massicce, deve reintrodurre restrizioni ai movimenti di capitali, e questo può rendere anche il suo potere politico più imprevedibile e in un certo senso incattivito dal timore di un'instabilità interna.